Gira molto sulle mail in questi giorni un documento lanciato da ricercatori che sono scettici sul fatto che sono gli imprenditori e che dicono: ah, è un falso che ci sia un innalzamento, è un falso che ci sia un boom enorme, ma le cifre dicono che l'aumento c'è. Loro dicono: ah, ma nel 2009 era diminuito, siamo nel 2012, anzi no, perdonate, nel 2010 era diminuito, siamo nel 2012. E infatti la mia tesi è che questa crisi è più grave di quella del 2008-2009. Comunque l'innalzamento c'è, ma il problema non è quello, non è che l'innalzamento se del 4% sul totale è un innalzamento poco rilevante e quindi è sbagliato parlarne. Il problema è che è rilevante parlarne, perché il fatto che si spezzi l'idea che valga la pena vivere quando si perde la dignità e l'onore per motivi economici è a fronte di un aumento, anche quello, dice, attenti a non sovrastimarlo, di un aumento dei fallimenti delle piccole imprese, e anche lì siamo aumento dell'8% di quelle delle imprese di costruzioni. L'8% anno su anno, secondo voi, non è un aumento rilevante quando siamo reduci da più 6, più 7, più 8 negli anni precedenti? Io ieri sono un po' sbottato, ho detto: a che punto dobbiamo arrivare di aumento dei fallimenti, di aumento dei suicidi, perché non ci chiediate di stare zitti, perché altrimenti stiamo esagerando.